Compatriota, compatriota, Burkina Prima. Compatriota, compatriota, Burkina Prima. Compatriota, compatriota, Burkina Prima. Compatriota, Burkina Prima. Compatriota, compatriota, Burkina Prima. Compatriota, compatriota, Burkina Prima. Hey, Burkina Prima. Hey, Batima. Compatriota, viva silencia. Compatriota, Burkina Prima.